1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Vi ricordo che avremo ospite Carlo Giovanardi alle 8:15 per parlare di questa sentenza della Cassazione, il reato di... non è reato consumare droga in gruppo, questa è una sentenza, è riferita alla legge Fini-Giovanardi. Avremo ospite anche alle 8:30 il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dopo le polemiche dei giorni scorsi per una Napoli appiedata perché mancava il gasolio per gli autobus pubblici. Allora andiamo a leggere i giornali in edicola. In questo venerdì 1 febbraio, intanto i titoli per il Sole 24 Ore: Montepaschi, chiarezza, interesse nazionale, è il virgolettato dell'intervista in esclusiva che il Sole ha con il suo direttore Roberto Napolitano, che ha intervistato il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che parla di Montepaschi. Crollano gli iscritti all'università, così invece apre il Corriere della Sera, mentre l'intervista del Sole è anche l'apertura per altri quotidiani. Repubblica, Napolitano, fare chiarezza su Montepaschi. E anche La Stampa, Napolitano, chiarezza su Montepaschi senza fare speculazioni. Il Fatto invece apre sugli F-35, una fabbrica da 680 milioni per costruire 18 ali, questo è il titolo. L'Unità, Montepaschi, duello Bersani-Monti. Libero, il giallo della banca comprata tre volte. Il Messaggero, Montepaschi, il giallo degli incontri segreti. Come vedete ci sono degli intrighi. E Il Giornale, tra Monti e Bersani, lite sul bottino Montepaschi. Queste sono alcune delle aperture, altre le vedremo più avanti. Voglio subito andare a leggere gli articoli. E come non iniziare anche oggi, per l'ennesimo giorno, dopo il consueto invito, tenete bene le mani salde sul volante, perché oggi ne leggerete ancora di rimborsi. Va avanti l'inchiesta della Guardia di Finanza per cercare di capire se i rimborsi consigliari della Regione Lombardia, in questo caso è la opposizione sotto la lente di ingrandimento, siano stati usati in maniera corretta o no. Uno legge i giornali, poi magari dal punto di vista penale non ci sarà nulla, ma... Tagliata di Aragosta e Pastelli, Lombardia, i rimborsi sotto accusa. Questo è il titolo dell'articolo del Corriere della Sera, Giuseppe Guastella, pagina 12. Ma bisogna spizzicare qua e là tra i vari giornali, perché si trovano delle chicche inenarrabili. Valerio Bettoni, consigliere UDC, si è fatto rimborsare un euro per i feltrini da mettere sotto la sedia. Giuseppe Adamoli, PD, 2.400 per il blog su Varese Politica, 17,50 euro per il libro di Mino Martinazzoli, uno strano democristiano, e poi dei libri in inglese. Elisabetta Fatuzzo, dei pensionati, ha saldato un conto per 4 da 200 euro per Tagliata di Aragosta. E poi forse è stato trovato quello della lista nozze. Guido Galperti, PD, 4 fotocamere digitali ricomprese in lista nozze, dovrà spiegare. E poi c'è Gianmarco Quadrini, UDC, e qui c'è un capitolo molto ampio da aprire, perché sul Corriere si raccontano dei suoi rimborsi in totale di 112.000 euro spartiti tra soliti pasti, consumazioni, alberghi, un bed and breakfast a Montepulciano, 4 camere per 2 notti al Grand Hotel Terme di Chianciano, ma anche un cuscino per divano da ufficio, 5 eco pass, cioè il pass per passare nel traffico di Milano nel centro, 624 euro dell'onorario di un avvocato, 187 euro per necrologi, 1568 per i prodotti alimentari comprati in un monastero a Valle Chiara, e poi 300 euro per il pesce, tra cui un'anguilla marinata, e infine la carta igienica. Ebbene sì, anche la carta igienica, tanto che il titolo di Libero è proprio questo: i rimborsi centristi vanno in carta igienica. Gianmarco Quadrini spende e mette anche queste. Poi c'è Stefano Zamponi, Italia dei Valori, un totale di 137.000 euro rimborsati, tra i quali cancelleria, taxi, albergo. Tra le curiosità, 13 euro per un poster, 74 al supermercato, 16 euro per rifare le chiavi, 468 per 15 kit penna Balenciaga, 150 confezioni da orologio da tavolo, 3 fermalibri, 80 euro, 24 euro in bandiere Bemberi. e via così discorrendo. Mattia Feltri sulla Stampa, dalle ostriche alla Nutella, l'anno della grande abbuffata, racconta tutto quest'anno, partito con Franco Fiorito e le cene da 5.000 euro per 80 ospiti del consigliere Francesco Battistoni, le ostriche di Fiorito e poi ancora il tartufo che va alla grandissima a Milano, il consigliere leghista Davide Boni se n'è sbaffato per 180 euro, la cena da 644, Bianco d'Alba. Stessa qualità scelta dal collega pidiellino Giorgio Pozzi, che radunò sempre al baretto al Baglioni 5 stelle Michelin un po' d'amici imprenditori a stendere strategie di sviluppo al costo di 3.320 euro, di cui 200 per vini, 400 per champagne, 882 per il regale tubero, cioè il tartufo. E allora, insomma, un riepilogo, si arriva fino alla biancheria intima, che chi ha preso in Liguria ancora non si sa. D'altronde trionfa, come sappiamo, Mister Nutella, Carlo Spreafico, Partito Democratico, Regione Lombardia. Qualche dichiarazione al Corriere della Sera: la Nutella? Vergognarmi? Ma nemmeno per un po'. Io non mangio Nutella, avrò offerto a qualcuno una piadina alla Nutella. Vergognarmi mai. Parla Spreafico, spese lecite anche per i magnum, ha preso un magnum da 1,80 euro più o meno. Io assicuro non mangio mai la Nutella, credo che si tratti di una piadina appunto alla Nutella che avrò offerto a qualcuno. Sarà stato poi un aperitivo, il crodino da 6 euro istituzionale o politico, così come il box pagato 648 euro a Lecco. Abbiamo fatto il trasloco, intendo noi del gruppo, prima stavamo nel palazzo di fronte, poi al Pirellone, cartelle Faldoni, serviva un monolocale, era una specie di magazzino pagato. Comunque non mi ricandiderò, avevo già preso la decisione per motivi familiari. E vergognarmi? Ma non mi vergogno neanche un po'. Io ho contribuito a eliminare i vitalizi dall'ufficio di presidenza. E, insomma, caviale, champagne, aragoste, il cibo, dappertutto il cibo, le cene, ma anche i feltrini per le sedie. In Liguria, invece, si è dimesso il vice di Burlando, Scialfa. Voglio che mi sia restituito l'onore, voglio difendermi, mentre non parla Blindata, doveva essere nostro ospite oggi, poi all'ultimo momento ha deciso di cambiare idea. Maruska Piredda, ex hostess di Alitalia, appassionaria delle battaglie sindacali di Alitalia, diventata poi politica consigliere regionale in Liguria, ieri ha parlato alla Guardia di Finanza, gli atti sono stati secretati, il Secolo XIX dice che stia collaborando. Piredda scarica i colleghi, la situazione l'ho ereditata. Sono consigliere, sono capogruppo alla Regione Liguria da 2 mesi, ma pare, racconta Marco Grasso, che Maruska Piredda sia un fiume in piena, in 4 ore passate davanti ai militari non risparmia nessuno, attacca tutti e dice: ho ereditato dai precedenti Nicolò Scialfa e Marilyn Fusco una situazione alla quale mi sono adeguata. Staccate pure le mani dal volante se siete arrivati a un semaforo, il solito buffettino al volante, e ci ritroviamo dopo la pubblicità del meteo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui allora alle 7.35 minuti, oggi sicuramente su Monte Paschi tiene banco l'intervista in esclusiva del Sole 24 Ore del suo direttore Roberto Napolitano al capo dello Stato, al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che parla appunto al Sole: Monte Paschi, chiarezza e interesse nazionale. Da qui, dalla tutela dell'interesse nazionale, che parte questo colloquio. Chiede con forza il capo dello Stato che si manifesti con la consapevolezza dell'interesse nazionale, cui sono certo sensibili tutte le forze responsabili, ferma restando la netta distinzione tra la doverosa azione penale e le riconosciute condizioni di stabilità della banca oggetto di indagine. Dice poi Napolitano sulla Banca Italia: si è documentato minuziosamente come Banca Italia abbia esercitato fin dall'inizio, col tradizionale rigore, le funzioni di vigilanza nei limiti delle sue attribuzioni di legge. E questo è un altro punto che vuole sottolineare il capo dello Stato, cioè la paura che ci sia gettato discredito sull'istituzione Banca Italia. E alla domanda del direttore del Sole 24 Ore: vuol dire che è stata la moral suasion di Via Nazionale a determinare il ricambio dei vertici di Montepaschi. Guardi, voglio dire, dice Napolitano, che nel quadro offerto dall'audizione in Parlamento possono essere soddisfatte, nel pieno rispetto delle diverse posizioni politiche, le esigenze di chiarezza fortemente sentite dall'opinione pubblica, in particolare dai risparmiatori. Riguardo all'interesse nazionale, chiede il direttore del Sole, i giornali fanno il proprio mestiere, con le notizie hanno svolto un ruolo importante per far venire la luce lo scandalo. So quanto possono essere importanti il ruolo e l'impulso della stampa, risponde il capo dello Stato. Sono altrettanto fermamente convinto che va salvaguardato il patrimonio di credibilità e prestigio anche fuori d'Italia di storiche istituzioni pubbliche di garanzia, insieme con la riconosciuta solidità del nostro sistema bancario nel suo complesso. Dunque, fare chiarezza ma anche tutelare l'interesse nazionale, questa è la posizione di Giorgio Napolitano. Potete leggere l'intervista sul Sole 24 Ore in prima pagina. Beh, ieri c'è stato ancora un duello, no? Tra Bersani e Monti sul Monte Paschi, perché il Premier ha detto fuori i partiti dalle banche e Bersani dice bene, anche fuori i banchieri dai partiti, e così siamo pari e patta. D'altronde, sulla questione del Monte Paschi ci sono degli sviluppi interessanti. Ieri è stato intervistato è stato interrogato Ettore Gotti Tedeschi, che era capo dello IOR ultimamente, ma era capo prima di Santander, vale a dire la banca che ha gestito insieme al Montepaschi la vicenda Anton Veneta. Ebbene, in questo interrogatorio la Procura di Roma, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, ha aperto anche un fascicolo per manipolazioni. Perché incontri segreti col presidente del Monte Paschi Mussari durante la trattativa per l'acquisto di Anton Veneta? Si concentra su questo l'interrogatorio del banchiere Ettore Gotti Tedeschi di fronte ai magistrati di Siena. Ma Ettore Gotti Tedeschi, dice, in pratica ha gestito tutto Madrid. Però in realtà questi incontri segreti, e la procura vuol vedere chiaro perché si videro, quali furono gli oggetti di questi incontri segreti, secondo la procura, appunto, di Gotti Tedeschi. Per esempio, nell'agenda sequestrata a Mussari c'è un appuntamento con lui fissato al 30 maggio 2007, vale a dire 6 mesi prima dell'accordo. Perché si videro? Possibile che ancora prima di acquistare Anton Veneta gli spagnoli avessero già la certezza di cederla a Montepaschi? Ecco, il banchiere non nega il contatto, ma assicura di non aver avuto un ruolo nel negoziato. L'operazione fu gestita direttamente dalla casa madre spagnola. Questa è la posizione di Gotti Tedeschi. Vi segnalo oggi sul Sole 24 Ore un interessantissimo articolo a firma Moria Longo, da non perdere, perché qui si capisce qual è il meccanismo, anche semplice, l'ho capito perfino io, quindi potete arrivarci anche voi, su come si riesce a fregare, fare la cresta in queste operazioni in cui si tratta di cartolarizzazione della sanità, i bond delle regioni, cioè tutte queste operazioni a volte spericolate in cui si buttano gli enti pubblici, anche gestendo titoli tossici, derivati un po' spericolati. Ecco come funziona il gioco delle mazzette. Moria Longo lo spiega molto bene a pagina 5. Il ruolo chiave è quello dei broker, che si inseriscono a un certo punto della trattativa. Il meccanismo è sempre lo stesso: quando una banca, un ente locale, una società intende mettere obbligazione e realizzare un investimento finanziario, in mezzo all'operazione si inserisce un introducing broker. Dietro queste parole molto molto affascinanti si nasconde spesso una società, a volte svizzera, irlandese, a volte italiana, che ufficialmente ha il ruolo di presentare la banca d'affari alla controparte. Il problema è che a volte, troppe in realtà, il lavoro del broker è inutile perché le due parti si conoscono già. Ma questo introducing broker ha una vera funzione, un'altra, quella di mettersi in mezzo all'operazione per trattenere un po' di utili che poi vengono spartiti tra i vari banchieri infedeli o funzionari coinvolti. E qui c'è il racconto di varie storie, le potete trovare tutte documentate e dettagliate, di introducing broker che appunto sono rivelati poi persone che hanno fatto la cresta su vari affari per poi per poi spartirli. E eccolo qui il vizietto del broker arrotondare sui deal, e lo trovate, Finanza Malata, questo articolo davvero leggetelo, a pagina 5 del Sole 24 Ore. Veniamo a parlare un pochino di tasse, perché troverete sui vari giornali paginate dedicate alla questione del riccometro. Così è definito lo strumento tecnicamente ISEE, cioè l'indicatore di situazione economica. Allora, ieri il Consiglio dei Ministri doveva prendere una decisione se cambiare i parametri per ristabilire questo ISEE, che è uno strumento importante, perché attraverso l'ISEE, cioè questo indicatore, si può poi accedere ai servizi, non so, dei comuni, i servizi del welfare. Ebbene, non è stata presa una decisione. C'è stato un blocco sul riccometro, ma quello che mi interessa è l'articolo che pubblica il Corriere della Sera a pagina 5. È un po' uno studio di tutte le dichiarazioni dell'ISEE in Italia, le dichiarazioni per ottenere gli sgravi. In Trentino sono 37.000 gli euro, in Sicilia 10.000. Ecco i dati presentati da 6 milioni e mezzo di italiani. È stato bollato come riccometro e l'ISEE. L'intento del governo era rivedere il rifunzionamento dei parametri, perché dietro le autocertificazioni spesso si nascondono famiglie che talvolta hanno in realtà la disponibilità per pagare interamente la retta dell'asilo, la retta dell'università, non dovrebbero accedere per questo agli sconti sulle bollette della luce o degli assegni di maternità, ma chiaramente cosa fanno? Truffano tutti noi tramite la dichiarazione sostitutiva unica. Qual è la regione con il maggior numero di dichiarazioni? La Campania con 1.237.000, segue la Sicilia con 800.000 dichiarazioni, con sono 2 milioni di cittadini potenzialmente coinvolti, poi Lazio 700.000, al quinto posto la Lombardia. E il dato che mi ha incuriosito è questo: ci sono 754.000 dichiarazioni, pari all'11,5% del totale presentate, che dichiarano zero. L'11% autocertifica 0 euro nella dichiarazione sostitutiva unica. Ah, paese di poveracci d'Italia o paese di ladri? C'è un po' di tutto, immagino. C'è un po' di tutto. L'altra notizia che mi incuriosisce non riguarda le tasse, ma qui bisogna ritenere le mani sul volante, riagganciare il volante con estrema forza e con estrema prontezza. Perché udite, sapete che c'era il tetto ai manager pubblici, allo stipendio dei manager pubblici, che era stato messo e parametrato al primo presidente di Cassazione, 293.658 euro, poi gli hanno messo anche un contributo di solidarietà del 5%. Risultato in questo straordinario paese è che non solo il contributo di solidarietà è stato giudicato incostituzionale ed è saltato, ma nel frattempo lo stipendio del primo presidente di Cassazione ha subito uno scattino di 9.000 euro in su, ovviamente, arrivando a 303.000 euro. E dunque, risultato, visto che gli stipendi massimi, il tetto dei manager pubblici è parametrato allo stipendio del primo presidente di Cassazione, risultato effettivo, nel 2013 c'è uno scatto in avanti, non il tetto, non il 5% di solidarietà, ma un aumento del tetto ai manager pubblici, che superano ora i 300.000 euro. Leggete per credere, il Messaggero a pagina 6: è destinato ad aumentare lo stipendio dei top manager pubblici. Io l'ho riletto 50 volte. Ma come aumentare? Avevano detto che c'era il tetto, avevano detto che mettevano il contributo di solidarietà. È destinato ad aumentare. Aumenta del 3,1%, che corrisponde grosso modo all'inflazione media del 2012, lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, parametro al quale è agganciato il tetto di retribuzione dei top manager della pubblica amministrazione. Anche Avvenire vi dedica un'intera pagina per gli stipendi d'oro. Non c'è crisi, sale il tetto, la morte ammoniva Totò, scrive Vincenzo Spagnolo, è una livella perché accomuna tutti, la crisi economica evidentemente no, visto che in Italia nel 2013 qualcuno sarà in grado di beneficiare di uno scattino intorno ai 9.000 euro l'anno, il 3,1% in più. Chi sono questi fortunati? I soliti noti, quei super manager pubblici con stipendi a 5 zeri che già avevano fatto discutere, per i quali il decreto Salva Italia aveva fissato il tetto netto da 293.000 euro, per il quale è stato messo il contributo di solidarietà, poi saltato, ed ecco qui aumento gli stipendi. Quindi vedete, in Italia non lamentatevi, cari italiani, non è vero che gli stipendi diminuiscono, non quelli di tutti, il traffico. In tutto questo la politica ha vissuto l'ennesima giornata di, insomma, battibecchi, di un po' sul Monte Paschi, un po' su altri temi. Monti, il premier, è andato da Angela Merkel, che ha fatto una mossa pro Monti, difende con durezza gli interessi italiani. Berlusconi subito ha risposto, si è fatto fare lo spot da Angela Merkel. Il Giornale, guardate come titola, con una sobrietà davvero invidiabile, una sobrietà montiana, l'editoriale di prima pagina, la culona ci riprova. Questo è il titolo dell'editoriale di Salvatore Tramontano. Ma Berlusconi è sempre più vicino. Berlusconi continua a dire c'è la rimonta. In un'intervista oggi al Quotidiano Nazionale dice sento il profumo della vittoria, e annuncia per domenica l'appuntamento a domenica per potrebbe svelare quella proposta shock che dice farò e che avrebbe in serbo, secondo i suoi, per l'economia. Ieri ha anche detto aboliremo il tetto di 1000 euro per i contanti, per i pagamenti in contanti. Ha anche aggiunto io vado a fare la spesa, e infatti il Quotidiano Libero titola così: presidente casalingo, io vado a fare la spesa. Invece all'interno del centro-sinistra da segnalare sul Manifesto un'intervista a Paolo Ferrero, che appoggia Rivoluzione Civile e che dice quello che ci ha già detto anche Antonio Di Pietro due giorni fa, cioè secondo lui il patto PD Monti c'è già. A questo proposito è da notare che Nichi Vendola fa una lettera pubblicata proprio sulla prima pagina del Manifesto, che ieri titolava basta questi scontri all'interno della sinistra tra Ingroia e Vendola stesso. Nichi Vendola scrive in una lettera pubblicata al Manifesto: togliersi l'elmo è il gesto nel quale più mi identifico dentro quella contesa aspra e cruda con cui spesso si presenta a noi la politica. Dobbiamo vincere, abbiamo di fronte a noi due destre, quella solita di Berlusconi che ha inquinato il paese con le sue pulsioni populiste e un'altra destra che si presenta in forte continuità con quella stessa cultura liberista che ha fornito l'ideologia di un modello di società da cui è scaturita la crisi economica e sociale più grave degli ultimi decenni. Mario Monti, entrato poco più di un anno fa nello scenario istituzionale, quello degli esodati, si candida ora a rappresentare direttamente quella destra. Vogliamo discutere a sinistra? Quindi è un Vendola che tra l'altro conclude questa lettera dicendo, definendo Mario Monti mio avversario. Insomma, un messaggio molto chiaro, come dire, se qualcuno pensa a una sorta di accordo tra la coalizione di cui faccio parte anch'io, Nichi Vendola, che vede Bersani candidato con Monti, beh, sappiate che Monti è il mio avversario. Allora, lasciamo la politica. La notizia che troverete su tutti i giornali, di cui si occuperà anche Simone Spezia alle 9:09 in punto, e che è per l'apertura in alcuni giornali, come il Corriere della Sera, per esempio, crollano gli iscritti all'università. È questo dato sicuramente inquietante. Le nostre università hanno perso in 10 anni 58.000 studenti, meno 17% negli ultimi 10 anni dalle borse di studio ai fondi. I numeri del declino dati dal Consiglio Universitario Nazionale, visto che gli iscritti sono passati da 338.000 a 280.000. Siamo sotto la media europea anche per numero di laureati: tra i 30 e i 34 anni si laurea il 19% dei giovani, la media europea è del 30%. Scende anche il numero dei professori: negli ultimi anni sono il 22% in meno negli ultimi 6 anni. Interessante l'intervista al vice ministro Michel Martone sul Corriere della Sera. Dice tutta colpa di modelli negativi come Corona. Ma come? Io l'ho letto, dice, ma che c'entra? Anche qui entra Fabrizio Corona. Ebbene sì, beh, c'è tutta un'analisi di Michel Martone, per carità, questo è il titolo. Parla di della situazione strutturale difficile dei giovani laureati, il 21% dei giovani laureati, mentre secondo gli obiettivi europei di Lisbona dovremmo arrivare al 40%, ma poi arriva alla fine a questa lettura sociologica quasi. Michel Martone: si è diffusa l'idea che la laurea sia inutile. Questo non è vero se si tratta di una laurea presa nei tempi giusti e con competenze spendibili all'estero. Purtroppo si affermano modelli negativi di successo immediato quanto effimero. Mi riferisco alle tante copertine su personaggi come Corona. Ecco, questa è la lettura sociologica del vice ministro Michel Martone. Corona c'ha pure una parte di colpa per lo scarso numero di laureati in Italia. Speriamo non gli diano un aggravante di pena per questo che già sta in carcere. Voglio chiudere con un dato che dovrei dire di rimettere per un attimo le mani sul volante, perché poi magari vi colgo di sprovvista e succedono cose poco piacevoli. Pagina 21 del Corriere della Sera. Sergio Rizzo racconta che la Corte dei Conti ha fatto il calcolo delle spese delle multe non pagate per le quote latte. Multe mai pagate dal 96, il calcolo della Corte dei Conti, tenetevi forte questo: quanto sono le multe, quanto ci sono costate? 4 miliardi 494 milioni 433 mila 627 euro 53 centesimi. Per renderla un po' più fruibile per tutti, 75 euro e 62 centesimi per ogni italiano, neonati compresi, che quelli di latte ne bevono anche abbastanza. Come mi ha scritto qualcuno su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, dice: ma io berrò sì e no 3 litri di latte all'anno e guarda che mi tocca pagare 75 euro a cranio di multe. Questa è la Corte dei Conti, i truffatori delle quote latte ci sono costati 4 miliardi e mezzo. Leggete questo articolo a pagina 21 del Corriere della Sera, firmato da Sergio Rizzo. Io mi fermo per il giornale radio, ci ritroviamo con gli ospiti dopo le 8:15.